nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Come sempre sono qui un po' nell'imbarazzo, nell'impaccio, no? Perché non so da dove iniziare, sono talmente tante le cose, le notizie, beh, veramente una serie di scatole cinesi, tu alzi una cosa e ne vengono fuori 200 altre mille, cioè non smettiamo mai di sorprenderci, almeno cerchiamo di mantenere, ecco, questa categoria della sorpresa, no? Nel senso che magari tanti si sentono questa suefazione alle cose, dicono vabbè ormai siamo abituati, no, e ogni volta, ogni giorno ce n'è una nuova, anche questa settimana, quante ne sono successe? Cioè, a parte notizie in genere, eccetera, ma quante cose anche solo nel nostro piccolo paese si scoprono e sono sempre, come sempre, cosa desolante, sono la punta dell'iceberg, perché queste vengono a galla e le altre che restano sul fondo, comunque aiutatemi come sempre voi ascoltatrici e ascoltatori a commentare i fatti della settimana, a segnalarne qualcuno che vi è rimasto particolarmente impresso, che vi ha colpito, che avete, sul quale avete voglia di dire la vostra col numero verde 800 24 00 24, insieme come sempre tutti i sabati dalle 14 alle 15, numero verde, vi dicevo, quindi numero ecologico, come vi ripeto sempre, se siete anche amanti dell'ambiente, evitate di disperdere vostre energie, tempo, pensieri nell'ambiente, invece concentratevi qui a Non ci sono più le mezze stagioni, 800 24 00 24. Molte, dicevo, le notizie, vogliamo fare proprio un putpurri molto breve, naturalmente ce l'avrete in testa anche voi, ma c'è stato questo, dopo tutti gli scandali di questi giorni, in particolare lo scandalo della Regione Lazio, l'arresto di Franco Fiorito, ex capogruppo del PDL alla Regione Lazio, detto anche Erbatman, e poi quindi la reazione abbastanza veloce del governo Monti, che ha deciso attraverso il Consiglio dei Ministri di varare, oltre al decreto sviluppo, Trasforma Italia, come lo volete chiamare, anche un decreto legge che taglia i costi alla politica, insomma ci sono un po' di cose in lista. Poi Napolitano, che ancora ieri il Presidente della Repubblica è tornato a lanciare questo appello, l'Italia è travagliata, c'è bisogno di uno slancio morale, non so verso dove questo slancio, diciamo che ce n'è poco di slancio morale in Italia. Poi gli studenti in piazza, ieri c'è stato il primo corteo di protesta un po' tutti gli anni, no, quest'anno evidentemente non piace agli studenti questo profumo, nel senso del ministro dell'istruzione, sono stati anche scontri, tensioni in varie città. E cos'altro vi posso raccontare? C'è l'assemblea nazionale del PD e tutta questa querella sulle primarie, Renzi, Bersani, poi Vendola che scende in campo, le regole quali sono, adesso lo decideranno definitivamente, però sembra che sia stato approvato, no, questo emendamento per far correre anche per esempio Renzi. È vero che si diceva che sarebbero state messe delle regole per cui lo si boicottava, ma in realtà poi comunque lo si è incluso con queste regole decise, queste deroghe, diciamo, sullo statuto del PD. E mentre il PDL, molti dicono, è allo sbando, mi pare che sia notizia di ieri o dell'altro ieri che Berlusconi ha detto basta, siamo per l'azzeramento di tutte le cariche, qui ci vuole una rifondazione del PDL, si chiamerà in un altro modo, forse Centrodestra Italia, un partito all'americana, poi vedremo cosa si intende. Anche perché tra poco c'è qualcuno che, insomma, l'America la conosce bene. Il crack del San Raffaele con i 10 anni di condanna a Daccò, il faccendiere con questi collegamenti con la Regione Lombardia, poi bisognerà naturalmente approfondire, ci penserà la magistratura. Sono venute fuori le motivazioni della sentenza della Cassazione sul massacro alla scuola Diaz di Genova durante il G8 del 2001, no? Che hanno detto i magistrati, l'Italia è stata screditata davanti al mondo con quello che è successo. E poi il duello, senz'altro, TV tra Obama e Romney, questa prima sfida TV che sembra stata vinta da Romney, ma poi vediamo un po' come andrà a finire, c'è grande speranza, grande tensione, si voterà a novembre. Bene, direi che sono già molte quelle che vi ho sottoposto. Quale tra queste vorreste commentare al numero verde 800 24 00 24? Ma come sempre anche vi dirò anche questa settimana che cos'è che conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Non un granché, insomma. Comunque, le api. Anche le api non sono più quelle di una volta, a parte che ne muoiono tantissime, sapete che c'è questa paura del morire di api, come diceva Einstein, quando spariranno le api gli esseri umani hanno ancora 4 anni di vita, quindi controllate che ci siano le api in giro. Comunque, in Alsazia cosa è successo? Questi allevatori di api, che sapete la Francia è uno dei maggiori produttori di miele, si vedevano arrivare le loro api con le zampette rosse, blu, gialle, arancioni. Cioè, cosa fa? Saranno state una festa di carnevale, a un festino mascherato che va di moda di questi tempi. Non si capiva come mai poi queste api facessero anche il miele, di conseguenza blu, dei barattoli blu, dei barattoli gialli, dei barattoli verdi di miele, che insomma, diciamo, un po' particolari. Poi si è scoperto che cosa facevano queste api. Andavano sì a specie di festini, effettivamente, perché andavano a posarsi sui residui della fabbrica, delle M&M's, avete presente quelle caramelline, il cioccolato, quasi bottoncini colorati, no? Bene, c'è la fabbrica vicino dove ci sono questi allevamenti di api e loro, più che sui fiori, andavano a posarsi gentilmente e raccoglievano quello di dolce che c'era in questi residui. Quindi insomma, anche loro sono piuttosto sbalestrate, non sanno più dove andare, invece che sui fiori vanno su le caramelle di cioccolato. Questo per confermarvi, ma insomma noi restiamo nelle nostre stagioni, la stagione soprattutto di oggi. E signore e signori, qual è l'opinionista estemporaneo di oggi? Federico Rampini. Buongiorno. Buongiorno Federico. Federico è un uomo che non sta mai fermo. Federico è un grande giornalista, corrispondente di Repubblica da New York, saggista, un sacco di saggi. Dicevo, chissà dove sarà tra New York, Assisi, la Cina, l'Italia. Dove sei in questo momento, Federico? In questo momento sto arrivando ad Assisi, dove partecipo brevemente al convegno internazionale che si chiama Il Cortile dei Gentili, sì, dove ieri ha parlato Giorgio Napolitano. Mm. Sei è una brevissima pausa italiana perché sì, domani devo essere poi dopo già riparti. Di ritorno. Poi scrivi un sacco di libri. Ora, io tu corri, mi pare di ricordare che corri, no? Correvi sia in Cina, non so a Pechino come facevi con l'inquinamento, corri anche a New York, ma il tuo segreto di riuscire a mantenerti così sempre super, una specie di Superman, non Air Batman, devo dire, però un Superman, qual è il tuo segreto, Federico? Allora, se c'è un segreto, premesso che non sono affatto Superman e che ogni tanto ho delle botte di stanchezza micidiali, ma il segreto si chiama yoga. Lo yoga? Perché tu, ma tu l'avevi iniziato prima di fare il corrispondente dalla Cina? Cioè una cosa che ti ha coinvolto? Con lo yoga è una storia che è molto antica, risale addirittura quando avevo 15 anni, cominciai a fare yoga per dei motivi strani, perché all'epoca ero interessato a una ragazzina che faceva yoga. Ecco, le motivazioni forti che ci spingono a fare delle attività, no? E quindi questo potrebbe essere, allora ci proviamo, magari da domani, io sono un po' per gli sport più d'impatto, però proverò anche questa cosa dello yoga, magari funziona su di te. L'alimentazione, tu sei un vegetariano così magro, no? Cerco di mangiare soprattutto frutta e verdura, però non sono un vegetariano dogmatico, quindi qualche volta il pesce soprattutto mi piace. Sei molto laico, insomma, questo. Senti, io ti voglio fare questa domanda a proposito di, hai citato il pesce, quindi la fauna, stai molto concentrato, anche se so che stai viaggiando, Federico, ascoltami, tu preferisci la fauna omeoterma o i funghi epigei, per esempio? Credo di non aver neanche capito la domanda. No, scusa Federico. No, dico, sono termini, non sono uno specialista di botanica. Quindi. No, però non mi dire che ho mai sentito parlare della fauna omeoterma e dei funghi epigei. Abbi pazienza, Federico. No, un uomo di mondo come te. No, ti dico perché quando c'è stato questo allarme prima del decreto legge per tagliare i costi alla politica, devi sapere che un consigliere della regione Piemonte, questo giovine, che però è rappresentante dei pensionati, quindi si chiama giovine ma è rappresentante dei pensionati, ha detto no al taglio degli stipendi, del numero di consiglieri, no? E allora per cercare di bloccare quello che si stava discutendo, no, in consiglio, di tagliare appunto le spese, ha portato avanti quasi fino a notte questa discussione, questi emendamenti sulla fauna omeoterma e i funghi epigei. Poi alla fine proprio nessuno ne capiva niente di questa cosa, lui ha continuato a dire che ci volevano gli emendamenti in queste materie, poi è intervenuto Cota, presidente della regione, dice basta, finisci da lì, chiudiamo, e si è arreso, capisci? Quindi sono importanti come argomenti, evidentemente si è tenuto un consiglio regionale così a lungo, diciamo, in sospeso, capisci, caro Federico, che pensi? Che pensi? Cioè, tu hai appena scritto questo libro, no? Che si intitola, sembra un titolo un po' alla Vermuller, un po' di quelli lunghi, tutti articolati. Non possiamo più permetterci uno stato sociale falso, punto esclamativo. Quindi prima fai un'affermazione che dici è un luogo comune, poi dici falso. Ma con tutto quello che sta succedendo in Italia, cioè, tutti questi sprechi, 60 miliardi di corruzione all'anno, ma tutti gli scandali, le cose che stanno venendo fuori. Com'è possibile mantenere, tra l'altro, lo stato sociale? Tu racconti in questo libro come dagli Stati Uniti ci vedano e dicono che la nostra economia ormai è scoppiata, quella dell'Europa in genere, che siamo stati troppo generosi con lo stato sociale, che è un sistema perdente, che dobbiamo imitare loro. Invece tu sostieni che no, non solo nell'interesse dell'equità sociale, eccetera, ma anche, diciamo, economicamente può essere di successo, produttivo, lo stato sociale. Sì. Beh sì, no, nel libro effettivamente io aggredisco un luogo comune che è diventato uno stereotipo dominante mondialmente, del resto. Sotto la dittatura degli stereotipi viviamo tutti, e in questo momento uno dei più forti è proprio quello che ci dice che abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi, che lo stato sociale è un lusso sostanzialmente condannato a essere smantellato. Ne sono convinte le classi dirigenti europee, e questo messaggio ci viene rinviato molto forte dall'America, che è il luogo che ha partorito l'ideologia neoliberista più forte. Del resto, proprio in questa campagna elettorale, io l'altro ieri ero ancora a Denver, Colorado, dove ho assistito dal vivo al dibattito tra Romney e Obama, e Romney ha avuto una frase tipica, ha detto: in Spagna ormai lo Stato rappresenta il 42% del reddito nazionale, l'America rischia di avvicinarsi a quel livello, io non voglio fare la fine della Spagna. Avendo io seguito spesso Romney durante la campagna elettorale, gli ho sentito ripetere a iosa delle frasi del tipo: l'Europa è condannata al declino perché lì tutti sono degli assistiti, tutti i cittadini si aspettano che sia lo Stato a risolvere i problemi. Tra l'altro lui aveva detto che lui del 47% degli americani che sono poveri, non pagano le tasse, non gli importa niente, no? Questa è stata questa gaffa. Sì. Però nonostante tutto, durante il dibattito sembra che abbia prevalso lui un po' nelle preferenze. Durante il dibattito lui è stato molto brillante, mentre Obama era stanco, era sulla difensiva. Abbiamo qualche problema con Federico, lo sapevo, in viaggio. Pronto Federico? Sì. Il modello sociale europeo che io guardo con più attenzione è quello che funziona, non la variante avariata, se posso permettermi, non la variante scassata, marcia e corrotta. Io guardo al modello sociale europeo dove è stato inventato questo modello, allora guardo alla Germania, i paesi, diciamo, di area germanica. Ma anche la Francia, no? La Francia già un po' meno, la Francia è una versione ibrida, ma i paesi più omogenei alla cultura germanica sono Olanda, Svizzera, Austria, e poi c'è importantissima tutta l'Europa nordico-scandinava. Svezia, allora, stato sociale intanto non vuol dire certamente i costi della politica, anzi. C'è una famosa battuta di un amico danese che dice: in Danimarca i primi ministri sono tutti molto giovani e molto poveri. Vero. Perché la politica è un'attività di servizio, uno dedica gli anni migliori della sua vita, se ha questo ideale, a servire i cittadini, poi dopo, quando ha 45-50 anni, va nel settore privato dove può avere degli stipendi un po' più elevati. Esattamente come succede in Italia, proprio la stessa cosa, proprio quella è una fotografia del nostro paese. Senti. Devo dire, degli ultimi scandali italiani, forse quello che mi ha colpito di più, vivendo negli Stati Uniti, è ancora più dei festini con le teste di maiale, fiorito, satirico, eccetera, è stata quest'ultima notizia che tra quelli che rubano c'era uno che gestiva la società i tributi, di delle imposte. Tributi Italia. Sì, è la cosa che mi ha colpito di più, perché addirittura chi deve raccogliere le imposte se ne mette in tasca una parte, vuol dire che il marcio è arrivato molto molto lontano. Detto questo, però, questo anche mi fa tornare al tema dello stato sociale, perché poi la soluzione ai problemi delle inefficienze dell'intervento pubblico, della mano pubblica, dei servizi pubblici, non è necessariamente la privatizzazione, visto che in questo caso si trattava appunto di una società privata che aveva preso in appalto dei servizi, ed ecco che come svolgeva questa funzione. In America ho un caso, l'America è un paese che ha pochissima corruzione, davvero poca. Come mai? Perché mi sembra che facciano anche parecchi anni di carcere quelli che, ecco, le persone, sì, no? Giusto? Sì, è un grosso deterrente. La questione con l'evasione fiscale non si scherza in America, le manette agli evasori le hanno inventate loro. È famoso, credo, anche in Italia, il caso negli anni 30 addirittura, quindi stiamo parlando di un'America del secolo scorso, molto più arretrata, ma tuttavia quando l'FBI non riuscì a incastrare Al Capone per reati di mafia, riuscirono a beccarlo sull'evasione fiscale, lo schiaffarono in carcere e non ne uscì più. Pensa tu, insomma. Federico, quindi, a parte, ricordo alle ascoltatrici e ascoltatori, notizia da prima pagina di oggi dei siti, è che Paolo Gabriele, sapete, il maggiordomo del Papa, accusato di essere stato il corvo, quello che ha sottratto i documenti riservati dalla stanza del Papa, è stato condannato a 18 mesi. Quindi è arrivata la sentenza, però il Vaticano dice il Papa lo grazierà. Ma ti chiedo, Federico Rampini, e chiedo a voi ascoltatrici e ascoltatori, quindi il caso Fiorito, no? Che tutti i soldi che ha prelevato, le case che si è comprato, 11 conti correnti che io dico manco riesco a tenere a bada il mio, adesso ci sono pochissimi soldi, ma se mi sottraessero 100, 400, neanche me ne accorgo, perché non ho proprio io la testa, diciamo, per stare dietro a certe cose. Lui ne aveva 11, quindi bisogna avere anche un certo talento per stare dietro a queste cose. Si era comprato il SUV immediatamente quando c'era stata la grande nevicata a Roma, sempre con i soldi pubblici, quindi pensate alla prontezza, quelli che non hanno comprato il SUV a Roma in quel periodo è perché non hanno capito la gravità della situazione. Quindi Fiorito da una parte, che dice quei soldi mi spettavano, poi questo consigliere giovine che ti dicevo prima e che vi dicevo prima della regione Piemonte, che parlava di questa fauna dei funghi epigei per cercare di non arrivare al taglio dei costi della politica, era tra l'altro stato anche condannato in passato per firme false a sostegno del governatore Cota. E poi questa società che riscuoteva l'ICI, come abbiamo detto adesso, e poi intascava i soldi e altre tasse. Poi quel politico che ha bucato le gomme, un disabile, perché lui dice ma io da anni parcheggiavo lì nel posto dei disabili con la mia Jaguar e nessuno mi aveva detto niente. Poi questo disabile l'ha denunciato, lui gli ha bucato le gomme, quando è stato scoperto ha detto ah, ho sbagliato, vabbè, ma guardate che c'è chi fa di peggio. Poi Raffaele Cattaneo invece, notizia di ieri sera, ci sono molti interventi sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, questo assessore della regione Lombardia ai trasporti si è lamentato dicendo adesso con questi tagli ai costi della politica io come farò a vivere tra mutuo, rette, con questo poco stipendio. Dice ora guadagno 8.000 euro, poi ne andrò a guadagnare circa la metà, e poi leggiamo qualche commento su Facebook. Ecco, a chi daresti la medaglia della faccia di bronzo, Federico? Perché sembra che la faccia di bronzo qua è così proprio di pelle a quello che ha bucato le gomme al disabile, perché è un gesto magari economicamente non così rilevante come i furti di Fiorito o di quella società Tributi Italia. Tributi, però è una prepotenza infame, ignobile, volgare. Ecco, torno per un attimo al tema del mio libro, quello quanto sia falso lo stereotipo secondo cui non ci possiamo più permettere lo Stato sociale. Dove lo Stato sociale funziona davvero, si fonda prima di tutto su un patto di cittadinanza, cioè sono paesi, mi riferisco appunto alla Germania, ai paesi scandinavi, dove c'è davvero un senso del rispetto delle regole, dei doveri e delle responsabilità condivise da tutti, dai ricchi come dai meno ricchi, dai più benestanti come dalle classi lavoratrici, il senso di appartenenza ad una comunità sola, il fatto che ci si sente tutti sulla stessa barca e quindi al di là del fatto che alcuni siano stati più o meno fortunati, più o meno bravi nella vita, però certe cose si fanno tutti insieme. È anche una cosa che dice Obama a proposito della sua visione dell'America. Il successo, dice Obama, vuol dire quando ce la facciamo tutti. Ecco, quest'idea di un contratto sociale, di un patto di cittadinanza, dell'appartenenza ad una comunità che ha delle regole, tutti le rispettano, è quello che va ricostruito in Italia. Ma a parte, ecco, io quello che dico, Federico, poi sentiamo Laura da Roma, Luigi da Imperia e le altre ascoltatrici e ascoltatori, non è soltanto il non rispettare le regole, cioè in Italia c'è proprio il regolo della faccia di bronzo, cioè una volta scoperti ti dicono anche ma come, ma guarda che c'è che fa di peggio, oppure questi soldi mi spettavano, oppure ma insomma di cosa stiamo parlando, io non vivrò più con 4.000, 5.000 euro al mese, come farò io con il mutuo e con le rette, capisci? Proprio anche questo è la cosa più straordinaria, diciamo, no? Nel nostro paese. Infatti i paesi che io considero come i modelli a cui dobbiamo ispirarci, che sono paesi anche molto vicini a noi, non bisogna andare troppo lontano per trovarli, sono paesi dove prima ancora che scattino le sanzioni di legge, scatta la sanzione della vergogna. che è importantissima, no? Ricordate, non molto tempo fa, un ministro tedesco degli esteri si è dovuto dimettere perché si era scoperto che da studente universitario alcune parti della sua tesi di laurea le aveva copiate. Ora, questo non era un reato, non era una cosa neanche che aveva alcunché a che vedere col suo lavoro di ministro, poteva essere un ottimo ministro degli esteri, non aveva compiuto nessun illecito nelle sue funzioni di governo, però è bastato che scattasse la sanzione della vergogna e se n'è andato via. Quindi è una questione proprio di cultura, diciamo, Federico Rampini, no? In Italia è una questione, non esiste più il pudore. Dobbiamo imparare a far rispettare le... Quando io torno in Italia e mi accorgo che ci sono delle file dove c'è sempre qualcuno che fa il furbo e cerca di passare davanti. In America si alza un coro di voci dalla fila che richiama il maleducato e gli dice vai indietro, vai in fondo alla fila. E dobbiamo imparare queste piccole reazioni di autodifesa collettive. Secondo te è più sudditanza o più assuefazione il fatto di non indignarsi rispetto a queste cose? Tu dici lì tutti lo rimanderebbero al posto suo, in Italia si sopporta. Ma c'è una teoria che a me piace molto, che è stata illustrata da uno scienziato della politica italiano che lavora, che insegna negli Stati Uniti, Maurizio Viroli, ha scritto un bellissimo libro intitolato La libertà dei servi. Ecco, lui sostiene, facendo una carrellata della storia italiana dei tempi di Machiavelli, che all'origine c'è una mancanza di autostima. Cioè, siccome abbiamo poca stima in noi stessi, per esempio più facilmente che in altri popoli abbiamo degli atteggiamenti di cortigiani, di servilità verso i potenti. Nei paesi dove c'è una società civile molto forte, dove i cittadini hanno conoscono i loro diritti, di se stessi, reagiscono immediatamente al sopruso. Sentiamo Laura da Roma all'800240024. Laura. Ciao Roberta, concordo perfettamente, grazie dello spazio, con quello che diceva Federico Rampini. Io volevo riferirmi così alla notizia di scandali appunto qui in Lazio e dire che a fare da contraltare a tutti i soldi rubati c'è la situazione di una città che è capitale d'Italia, nonché riferimento diciamo in tutto il mondo, che è in piena decadenza. Faccio semplicemente degli esempi, tanto per essere concreta. Io abito fuori Roma e prendo i pullman diciamo della Cotral, no? Che servono tutta la provincia di Roma. Ebbene, le persone che lavorano e che contribuiscono diciamo al PIL collettivo dello Stato viaggiano in pullman che sono sventrati, dove i sedili sono rotti, che sono in condizioni igieniche pietose, da terzo mondo. Faccio un esempio di una CEA, che è una società appunto di Roma, che si permette di far pagare ai cittadini i consumi presunti ed emette delle bollette pazze, e i sudditi appunto di cui parlava Rampini pagano perché non sanno che possono presentare ricorso al garante e muoversi. Una città dove l'emergenza rifiuti è dietro l'angolo, perché rischiamo di fare la fine di Napoli. Ecco, questa è Roma e diciamo in contrattare ci sono così i soldi rubati da queste persone, e non sto facendo un discorso di destra e sinistra, perché purtroppo qui stanno depredando una città, credo, non sto esagerando, ma è proprio così. E purtroppo questo clima di assuefazione di cui si parlava qui è imperante, perché ormai si pensa che niente possa cambiare, anche se però dei segnali deboli ci sono. Tipo? Ci sono, perché mi hanno raccontato tempo fa che nelle zone dell'Aventino praticamente hanno visto sfilare delle auto blu, perché poi l'arroganza di queste auto blu che viaggiano con una persona, due al massimo, no? Cioè una roba schifosa. Alcuni cittadini romani hanno protestato perché chiaramente queste auto blu chiedevano la strada, no? Tutta per loro, e quindi c'è stato appunto una sorta di... Ecco, questi sono dei segnali deboli che ogni tanto vengono fuori. Ma una specie di ribellione c'è stata, Laura. Esatto, sì. No, io faccio un esempio, due settimane fa ero qui a Castel Gandolfo, c'è stato un incontro del Papa con alcuni esponenti del Movimento Cristiano Internazionale, ho visto sfilare almeno 20 auto blu che viaggiavano con una persona, una o due al massimo, e ti garantisco che è uno spettacolo che stride, ecco, stride sempre di più, perché dall'altra parte ci sono invece una serie di disservizi in questa città che dovrebbe essere modello in tutto il mondo per le risorse che ha anche solo a livello turistico, eccetera, eccetera, ma che però, ecco, se tu giri per le strade del centro sono sempre più sporche. Laura, ma dimmi, sporche non solo... quanti anni hai, che sei molto giovane tu? Io ho 52 anni. avrei detto 22 al massimo. Sono giovanissima. No, sei giovanissima comunque. Laura, ti ringrazio molto, ringrazio molto per questo tuo punto di vista sulla città. Federico Rampini, tu ogni tanto vai a Roma? Sì, perché è lì che ha la sede del Repubblica, giornale. Certo. Che ti sembra rispetto a quello che diceva Laura? Ma ecco, io vivendo lontanissimo ci passo di solito poche giornate, qualche volta addirittura. Quindi è poco poche modo ore, di renderti conto. Semmai io ancora colgo la bellezza, ma questo rafforza quello che appena ha detto l'ascoltatrice, cioè noi italiani, e tra noi italiani i romani sicuramente in particolare, abbiamo una responsabilità in più rispetto ad altri popoli, perché con un'immagine che a me piace molto, si dice che stiamo seduti sulle spalle di giganti, nel senso che prima di noi, i nostri antenati, hanno costruito la nazione più bella del mondo. Non c'è gara, cioè non esiste un altro paese con delle meraviglie come quelle che si possono vedere a Roma, Firenze, Venezia e in tantissimi altri posti d'Italia. Non possiamo permetterci il peccato mortale di rovinare l'eredità che abbiamo ricevuto, anzi questa eredità è la nostra ricchezza più preziosa, quella sulla quale possiamo ancora contare per immaginare una vocazione di rinascita e di riscatto del nostro. E ce lo ripetiamo, speriamo che qualcuno abbia prima o poi le orecchie per ascoltare. Luigi da Imperia, dici sì, tutto. Volevo dire questo brevemente, sì. Se mi lasciate dire. Certo. Mi meraviglio come che nessuno giornalista, opinionista, esperto dica come mai tutte le professioni, medici, avvocati, farmacisti, architetti, veterinari, ingegneri, giudici, magistrati, hanno lauree, abilitazioni, concorsi, controconcorsi, mentre qualsiasi imbecille, qualsiasi ignorante, qualsiasi volgare personaggio può benissimo presentarsi al Parlamento o alle regioni come candidato, avendo la responsabilità di uno Stato o di una regione. E poi volevo aggiungere anche, se mi lasciate un minuto, sì, questo famoso governo di grandi tecnici salvatori della patria, Novelli, Cincinnati, Scipioni, Fabio Massimo, mettiamoli tutti, Cicerone, Controverri, Catilina, eccetera. È un elenco infinito, sì? Ecco, e concludiamo. Il ministro della pubblica istruzione si stupisce che dalla scuola è sparita l'educazione civica, così l'ignoranza cresce ancora di più, però annuncia trionfante che 126 milioni sono a disposizione per le scuole, più la metà da mettere in sicurezza. Il presidente Monti alla Bocconi ci racconta la frottola che il futuro delle nuove generazioni dipenderà dalla TAV, perché noi siamo scollegati dall'Europa, mentre abbiamo ben 7 valichi ferroviari, se voi li conoscete me li dite, ma io penso che lui non li conosca, pienamente efficienti, ma dove non transita nessun treno, i binari saranno arrugginiti. Invece abbiamo bisogno di quel buco di 60 km che costa, ammesso che fosse finito, ma neanche ne faranno neanche un chilometro, 50 miliardi. Allora, per la scuola 126 milioni, e lì il ministro Passero annuncia 50 miliardi. E l'ultima è quest'altra qui. Ah, ci dice il ministro Passero che saremo collegati da Lisbona a Kiev. Mi chiedo quale merce deve andare da Lisbona a Kiev a 300 all'ora. Cruciani mi ha detto la mozzarella, che deve arrivare un quarto d'ora prima. E sentite questa, ci collega anche con l'Africa, forse per importare datteri e sabbia dal Sahara a 300 all'ora. Guarda, non conosco adesso, diciamo, le categorie di merci che devono attraversare, percorrere queste distanze, questi luoghi. Luigi, sentito la tua indignazione, brevemente Federico Rampini, cosa ne pensi? Tra l'altro tu sei favorevole alla TAV, una cosa di cui si è smesso un po' di discutere, diciamo, questa cosa è lì che... procede silenziosamente. E poi anche questa cosa effettivamente della laurea, no? È venuto fuori ulteriormente in questi giorni con gli scandali in particolare della regione Lazio, E leggo brevemente questa agenzia di questi istanti. Dice: andare al voto nel mese di dicembre tecnicamente è impossibile, oltre che economicamente insensato, così l'assessore al bilancio della Regione Lazio, Stefano Cetica, uno dei più stretti collaboratori della presidente, ex presidente, Renata Polverini. Venuto fuori, dicevo, anche nello scandalo Lazio, che c'era un sacco di persone con dei titoli fantasiosi o addirittura degli istituti professionali, delle cose insomma che poco erano attinenti al ruolo che ricoprivano, e ce ne sono ancora tantissimi in Italia sicuramente. Che ne pensi, Federico? Attenzione però, perché se mettessimo dei titoli di studio obbligatori per avere delle cariche politiche, noi dalla democrazia scivoleremmo verso quello che nell'antica Grecia si chiamava all'origine aristocrazia. Aristocrazia voleva dire il governo dei migliori, i migliori selezionati per cultura. Era un'idea tra l'altro discussa da Platone, Aristotele. Nella democrazia non è detto necessariamente che chi ha studiato di più sia un migliore amministratore della cosa pubblica. Del resto lo stesso ascoltatore, dopo la sua prima osservazione, ha seguito una serie di critiche al governo dei tecnici, dove ci sono fior di professori, e tuttavia non è detto che in questo momento stiano governando al meglio. Almeno alcuni di questi possono avere grandi titoli accademici. Dimmi quale che ti piace meno, Federico, dimmi solo quale ti piace meno di questi tecnici. Corrado Passera, va bene. Eligio da Roma, centinaia di telefonate stanno arrivando alla nostra Nadia Zammitti, 800 24 0024. Eligio, come mi stai registrando, Eligio? Com'è che mi risento tal quale? Che strana sensazione. Sono qui, Eligio. Pronto? Sì, mi sentite? Benissimo, parli pure. Perfetto, parla, sì. Ok. Allora, io volevo parlare solamente, siccome gli argomenti che lei ha accennato, si è anche parlato del congresso... dell'Assemblea Nazionale del PD. Assemblea Nazionale. Ma poi ci andiamo. Assemblea Congresso, sì. Quindi io devo dire semplicemente questo, che i cittadini, elettori e elettrici dovrebbero, a mio avviso, captare qual è il segnale importante che viene dato da questa Assemblea. Se il PD avesse voluto al suo interno evitare qualsiasi diatribe nei confronti o dell'esterno o anche proprio dei membri stessi, chiaro che mi riferisco Renzi, Bersani e compagni, sarebbe bastata una sola cosa, che Bersani avesse dichiarato: sarà applicato quello che dice lo statuto del PD, che dice chiaramente che i membri non possono essere ricandidati per più di 3 legislature. Badate, è scritto, non è una cosa inventata o demagogica, è scritto. A questo punto non si sarebbe creata nessuna lotta intestina, nessuna diversità d'opinioni, perché chiaramente tutti i vari D'Alema, Bindi, eccetera, eccetera, non sarebbero più stati automaticamente ricandidati, e quindi ci sarebbe stato un ricambio generazionale, più o meno, che è quello che ci auspichiamo, ci auguriamo un po' tutti. Scusa, Eligio, a questo proposito, prego. Quindi ricambio generazionale, immagino che tu ti riferisca in particolare a Renzi. Quello che mi interessa sapere, per esempio, dai sostenitori di Renzi, no? È: a voi fa l'effetto, diciamo, un Renzi perché è giovane, perché è una faccia che non è stata decenni in Parlamento, anzi non c'è mai stata, perché ha una sua freschezza così anche a livello epidermico, quindi è più confezione, solo l'idea di vedere qualcuno, una faccia nuova, oppure ci sono dei contenuti? Il programma, tu l'hai capito, per esempio, di Renzi, Eligio? Cosa ti piace del programma di Renzi? Sì, ma ripeto, poi in questo momento, secondo me, chiaramente, sempre secondo me, è un momento tale per cui i contenuti vanno ben al di là di quello che è proprio è la situazione attuale, che è quella del ricambio. No, ho capito, Eligio, ma il ricambio, basta, cioè a te basta il ricambio? Contenuti, poi, sì, basta il ricambio, perché poi guardate, i contenuti, purché siano contenuti etici, e finalizzati, come si diceva una volta, al governo come il buon padre di famiglia, vanno bene tutti. Poi possiamo fare chiaramente delle discussioni interne, se sia più giusto un mercato completamente liberista o con delle regole, ma il segnale che dà Renzi è quello: guardate, siccome voi potevate farlo, bastava una dichiarazione del segretario, una dichiarazione sulla stampa, cioè quello statuto dice questo, noi lo applichiamo, punto, basta, non c'erano primarie, non c'erano niente, poi sì, le potevamo fare, ma comunque quello che gli elettori non vogliono più, cioè le solite facce, sicuramente, diciamo che i 3/4 sarebbero spariti. Quindi io vedo Renzi solamente come lo porto questo che voi dovete farlo in maniera automatica, non lo volete fare, benissimo, andiamo a un confronto. Ligio, chiarissimo, attenzione. Chiarissimo, caro, mi dicono, mi dice Paolo Corleone, a parte tecnica, che abbiamo stabilito il contatto satellitare con un altro pianeta, sai che c'è sempre questo appuntamento. Poi mi piacerà sapere, Federico Rampini, cosa pensa di Renzi, di queste primarie, di questo caos nel PD, ma prima il collegamento, sì. Riflessioni da Marte. Controllavo il mio telescopio questa settimana, quello che punto sempre verso il globo terracqueo perché voglio vedere cosa succede. Poi diciamolo, è decisamente più interessante il globo terracqueo della televisione, che qui tra l'altro ha molte antenne, antenne verdi, essendo TV marziana. Ebbene, lo controllavo il mio telescopio perché pensavo che la lente si fosse guastata o che, so, invertita. Vedevo infatti il mondo all'incontrario, a capa sotto, come si dice in questi giorni. O almeno all'incontrario di come uno si immagina che dovrebbe essere. Per esempio, al posto del vostro supereroe, lì come si chiama, Batman il giustiziere, vedevo Er Batman il razziatore, famelico di soldi pubblici. C'era poi un maggiordomo papale infedele che raccontava di essere stato maltrattato nelle evangeliche carceri vaticane, costretto in una cella dove non poteva nemmeno allargare le braccia e con la luce accesa 24 ore su 24. Dopo ho visto la grande multinazionale svedese del mobile low cost prima rappresentare fotograficamente nel suo catalogo le coppie gay per difendere i loro diritti in Europa, ma poi in Arabia Saudita cancellare le immagini femminili, come se le donne non esistessero, nel medesimo catalogo per non danneggiare il proprio business in uno dei paesi più arcaici della terra, appunto l'Arabia Saudita. Ho visto anche l'amministratore delegato di una società che doveva riscuotere le tasse che servono per erogare servizi ai cittadini, servirsi dei soldi dei cittadini per i suoi insaziabili lussi. E poi, sempre col telescopio, ho individuato un poliziotto e un carabiniere che ad Ancona volevano rapinare la Banca d'Italia. Non si capisce più niente. Ho pensato, sarà colpa del mio telescopio. Gli sarà successo qualcosa. Poi ho continuato e ho visto un politico che ha bucato le gomme a un disabile e una volta scoperto si è giustificato dicendo «Ho sbagliato, ma guardate che c'è chi fa di peggio». E poi ancora ho visto col telescopio impazzito la magistratura tedesca che ha deciso di archiviare l'inchiesta sull'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, quella in cui il 12 agosto del 44 vennero trucidate dai nazisti tra le 457 e le 560 persone, in gran parte anziani, donne, 116 tra ragazzi e bambini, decidendo la procura di Stoccarda di non chiedere l'imputazione degli 8 ex militari accusati del massacro per insufficienza di prove. Sai, magari tutte quelle persone sono morte per inquinamento, che già allora c'era, eh. E dopo, spostando il telescopio, ho visto il creatore del Porcellum che voleva fare fuori la sua stessa creatura. E ho provato allora a scuotere il telescopio, a pulirne la lente strofinando e strofinando, ma il risultato non è cambiato. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Torniamo con i piedi per terra, speriamo un po' di speranza. Francesco da Milano, che racconti all'800240024 prima della viabilità? Sì, sì, pronto? Sono qui. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, vado così in base alle ultime cose che avete detto. Volevo rispondere a Rampini. Sì. Il governo dei migliori. L'aristocrazia. Sì, sì, ma occhio da chiedersi perché ci troviamo il governo dei peggiori, ma non a livello di governo, dell'attuale governo o del governo in della genere. Classe politica, dici? La classe politica dei comuni, delle province, perché chissà cosa c'è in questi, però noi guardiamo sì l'onorevole Tale, il ministro, alla fine penso che siano le persone forse più dignitose ci siano, ma abbiamo il governo dei peggiori, ma certo che se, voglio dire, che validità può avere il voto di chi si presta a fingere situazioni anche moralmente penose in televisione pur di apparire. Dico che che valore può avere il voto di persone di questo tipo? Poi la responsabilità individuale, è questo quello che manca, perché noi ci lamentiamo di quello che succede, ma siamo noi la parte che fa succedere questo, nei nostri atteggiamenti di ogni giorno. Caro Federico, adesso leggo, stanno uscendo varie agenzie sull'Assemblea Nazionale del PD, Bersani che dice il campo progressista aperto ai moderati, insomma io capisco, diciamo un po' di democrazia è rimasta comunque nel PD, anche questo fatto di aprire a diversi candidati, ma qual è l'identità del PD? Io non so più che vogliono, che pensano, che programmi hanno, qual è la loro visione del mondo? Ma io credo che un nocciolo duro di identità sia rimasto abbastanza chiaro, cioè che la sinistra è portatrice di un'idea di solidarietà, di coesione, un ruolo del servizio pubblico perché l'Italia sia un paese al tempo stesso un po' meno ingiusto, un po' meno diseguale, ma anche più competitivo, perché sempre tornando alla tesi fondamentale del mio libro, quei paesi dove il modello sociale europeo funziona davvero, come la Germania, sono dei paesi anche straordinariamente efficienti. Ma te piace Renzi? No, non tanto, perché credo che sia lui portatore di una cultura già vecchia, nonostante la sua giovane età, che è quella di Tony Blair, il politico a cui lo trovo più assomigliante è Tony Blair, l'ex primo ministro inglese, che all'epoca sembrò portare una ventata di innovazione perché sostanzialmente era un neoliberista. E credo che invece abbia fatto tanti errori, a parte la guerra in Iraq, che è il più grave di tutti, ma insomma che è parte di un problema della sinistra occidentale che a un certo punto si è innamorata di un credo liberista, ha creduto di poter usare il mercato per fare le riforme e si è trovata in realtà succube di un modello pensato da altri, voluto da altri, e che ci ha portato alla crisi del 2008. Sentiamo adesso un punto di vista un po' particolare, e quello del nostro Don Severino da Potenza. Don Severino, a te la parola. Ciao Roberta, ciao. Buongiorno a tutti e grazie come sempre. Tu proprio ora hai fatto una domanda, che cos'è il PD, l'identità del PD. Ecco, guarda, il problema attuale del PD è un po' come quello della Chiesa, cioè nel senso, quando una persona perde un'identità, si sfascia tutto. Cioè, il problema della Chiesa è che perdendo l'identità di Cristo si ritrova, no, ad andare contro quello che è il Vangelo. Gesù è venuto per liberare i prigionieri, guarda caso in Vaticano ci sono le prigioni, fanno i processi e poi dobbiamo attenderci questa grazia, quando questo è inconcepibile evangelicamente. Il PD ugualmente ha perso la sua identità, e quando uno perde la sua identità e si cala le brache continuamente a un cretino come Renzi o alla Chiesa, va bene, che non ha identità, e la fine qual è? Speriamo che non sia la fine. Questo è il problema. Questo è il punto di vista di Don Severino. E adesso invece vorrei sapere da Valeria della Valle, linguista della Sapienza di Roma, cara Valeria, io ti sottoporrei un termine, diciamo, molto di moda, malaffare, ecco. Malaffare, sì, già, dici giustamente, un termine molto di moda, anche se l'espressione è antica, risale già alla fine del 500 e alla prima metà del 600, e anche in tempi non così lontani si scriveva e si sentiva parlare di che cosa? Ma della gente di malaffare, cioè gente disonesta, le case di malaffare, le case chiuse, le donne di malaffare, cioè le prostitute. Poi l'espressione di malaffare è un po' stata usata un po' di meno ed è tornata di grande attualità proprio in questo periodo, addirittura in questi giorni, perché è stato usato anche nei titoli dei giornali a proposito dello scandalo di cui avete parlato anche oggi, lo scandalo della regione Lazio, no? C'erano i titoli: fare piazza pulita del malaffare. Come sempre, conclusione, alla fine quasi quasi rimpiangiamo la gente, le donne, le case di malaffare di un tempo, che al confronto del malaffare di oggi ci sembrano tutto sommato affari mali, no? Questa è l'etimologia, cioè affari disonesti, ma non turpi e ignobili come quelli appena venuti alla luce. Grazie carissima Valeria. E a questo punto ritornerei su Federico Rampini, vi ricordo, scritto: non ci possiamo più permettere uno stato sociale sociale falso pubblicato dalla Terza. Ti vorrei far sentire, intanto chiedo perdono a Mauro Damassa, alle altre ascoltatrici e ascoltatori, non ce la facciamo, ma vi prego di richiamare poi sabato prossimo, di notizie ne abbiamo sempre una valanga. Ti vorrei far sentire questa cosa, Federico. Adesso arriva lui. Sai chi è lui? Tu sai chi è lui, Federico? Lui o lei? Lui, lei dice adesso arriva lui, no? Questo fare così un po' insinuoso. È Grillo, perché Mina ha preso posizione chiaramente in questi giorni, ha scritto un messaggio sul sito di Grillo e difendendolo dal fatto che l'abbiano paragonato a Mussolini, dice che bassezza la povertà di questa iconografia da strapazzo, dice Mina. Le similitudini per la tua antidemocraticità, Grillo, per il tuo qualunquismo, per la tua voglia di reclamizzarti, sono pezzi disordinati di ineleganza, al limite del ridicolo o della querela. Ne vedremo delle belle. Temo, tu va dritto come un fuso, corri Forrest, corri, come Forrest Gump diceva il suo amore, la sua ragazzina di sempre. Che ne pensi in questi 22 secondi che restano, Federico? Penso che il PD ha perso un'occasione e ha fatto un grave errore nel non reagire allo scandalo della Regione Lazio con dei provvedimenti di sanzioni durissime contro i suoi membri che hanno partecipato della mangiatoia. E in questo modo alimenta Grillo. E con questo chiudiamo. Grazie a Federico Rampini. Vi ricordo che la pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.